casa si perdono i suoi piccoli giochi. Amore, si può anche costringere il gatto randagio a lasciare il balcone quando smette la pioggia. Abbassa la coda e si perde nel cuore del giardino antico. Volano i coltelli che si conficcano nella